4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Allora, buona serata, bentornati amici dei motori, ancora una volta una puntata dedicata a tutto ciò che è auto, moto e poi ci saranno anche piccole sorprese. Questa sera l'ultima puntata della durata di un'ora, poi dal prossimo sabato, tornando al palinsesto, chiamiamolo autunnale, invernale di Radio 24, torneremo dalle 21 fino alle 21.45. Quindi per questa sera un quarto d'ora in più ancora di temi e di argomenti. Inizieremo alla grande con una prova comparativa che va su un altare praticamente adorato da molti, quello dell'Alfa Romeo, e sull'altro quello di una Seat che stupisce, a contrapporre l'Alfa Romeo 159, la JTDM da 170 cavalli con la Seat Exeo, un 2000 TDI anch'essa con 170 cavalli. Lo faremo insieme ad Andrea Stassano di Quattro Ruote. Caro Andrea, benvenuto. Grazie, buonasera Roberto, a te e a tutti gli ascoltatori. Dopo Andrea parleremo vi elenco brevemente i nostri temi con il direttore proprio del mensile per quanto riguarda il ministro Zaia, che ha fatto una dichiarazione la quale ha sollevato certe polemiche per quanto riguarda la difesa del settore imprenditoriale, vinicolo, tutto ciò che concerne il vino. Ovviamente quando si tratta di vino e auto si va sempre molto cauti. Poi parleremo di viva voce per iPhone, uno dei modelli cellulari più diffusi anche nel nostro paese, di mercato con il professor Malagodi, e poi Emilio De Leidi, giornalista di auto ed esperto, ci parlerà del giallo del giallo, quindi un'inchiesta fatta sulla durata del semaforo quando assume il colore centrale, cioè quello giallo prima dell'arrivo del rosso. Chiuderemo con il nostro avvocato Lievore e i suoi preziosi consigli oggi sulla retromarcia e le sanzioni per chi sbaglia questa manovra. Allora, caro Andrea, intanto spiega ai nostri ascoltatori i motivi, il perché di una prova comparativa fra Alfa Romeo 159 e Seat Exeo. Certo, abbiamo voluto mettere a confronto due berline a gasolio, entrambe interessanti, veloci, sportiveggianti, con un prezzo, entrambe con un prezzo sotto i 30.000 euro, ma dalla genesi un po' in effetti un po' diversa. La 159 è un modello, come sappiamo, nato nel 2005, poi aggiornato e appunto di recente rivitalizzato da nuovi motori, tra cui appunto questo ottimo 2000 JTDM. L'Exeo invece nasce sulle ceneri della Audi A4 penultima serie, con qualche dettaglio cambiato, tipo mascherine, loghi e fari, ma con tecnologia e questo bel motore TDI con monorail aggiornato. Per entrambe le vetture abbiamo detto 170 cavalli, grandi ambizioni, e quindi ecco che la sfida è tutta da giocare. Era proprio opportuna. Tra l'altro non sfugga il paragone che ha fatto Andrea con l'Audi, perché il gruppo è il medesimo, tanto che Quattro Ruote titola un piccolo box: bel lavoro di gruppo per l'Exeo. Capiremo dopo perché. Prima però la scheda ci introduce nel mondo Alfa Romeo 159 e Seat Exeo. L'italiana si ripropone con un nuovo brillante turbo diesel. La spagnola ribatte debuttando nel segmento D con una sorta di Audi A4 penultima serie. Una sfida sul filo delle curve, questa tra l'Alfa 159 2000 JTDM e la nuova Seat Exeo 2000 TDI. Entrambe con common rail cattivi da 170 cavalli, entrambe con velleità, se non proprio sportive, almeno da auto divertenti. Nome: Alfa 159 2000 JTDM Progression. Carrozzeria: 4 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,66 m. Larghezza 1,83 m. Peso 1490 kg. Motore 4 cilindri turbo diesel. Potenza 170 cavalli. Trasmissione trazione anteriore, cambio meccanico a 6 rapporti. Prezzo da 29.351 euro. Nome: Seat Exeo 2000 TDI Sport. Carrozzeria: 4 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,66 m. Larghezza 1,77 m. Peso 1455 kg. Motore 4 cilindri turbo diesel. Potenza 170 cavalli. Trasmissione trazione anteriore, cambio meccanico a 6 rapporti. Prezzo da 28.241 euro. Ecco, queste erano le caratteristiche principali della nostra prova comparativa di oggi. Iniziamo allora dall'Alfa Romeo. Andrea, innanzitutto, come si comporta questa vettura? Parliamo di motore e dinamica, tanto per iniziare. Certo, il motore è un 2 litri JTDM con cilindrata portata da 1910 a 1956 centimetri cubici, alcune modifiche alla turbina a geometria variabile, al rapporto di compressione che è stato ridotto, alle candelette che consentono di avere proprio un nuovo motore, una nuova generazione che eroga invece che 150 170 cavalli, molta più coppia a più basso numero di giri e quindi più alte prestazioni, più piacere di guida e abbiamo notato nella prova anche consumi inalterati. Questo quindi è un ottimo. Questo è importante perché 20 sì. cavalli in più ci sono, quindi consumi inalterati dipendono dalla buona tecnologia, dalla buona progettazione in casa Alfa. Senti, invece, Seat Exeo, per le stesse caratteristiche, è un'auto nuova, è un motore nuovo, deriva da qualche basamento? Dunque, per quanto riguarda il motore è il nuovo 2 litri Common Rail, TDI Common Rail, che abbiamo già visto su altri importanti modelli del gruppo. È un motore molto prestazionale, piuttosto silenzioso, con coppia robusta ai bassi medi regimi, un'ottima progressione, quindi senz'altro un'unità in grado di rivaleggiare a pieno titolo con il 4 cilindri turbo diesel dell'Alfa. Senti Andrea, ti faccio subito una provocazione, guardiamo un attimo i prezzi, li ripetiamo intanto agli ascoltatori. Alfa da 29.351 con l'allestimento progression che avete avuto voi, poi bisogna stare attenti, come diciamo sempre, naturalmente agli optional, alle scelte presso il concessionario, e quindi 29.3, invece Seat Exeo 28.2, 1000 euro di differenza per queste due auto. Qualcheduno qualche anno fa poteva dire: ma è l'Alfa Romeo che costa poco o è la Seat che costa tanto? Oggi forse non è più valido questo discorso. Ma dunque intanto gli allestimenti, come dicevi tu giustamente, la 159 in allestimento entry level progression, comunque ben equipaggiato, e l'Exeo Sport invece ha appunto un allestimento un po' più ricco di partenza. La differenza di prezzo è comunque minima tutto sommato, e dobbiamo pensare anche che l'Exeo nasce su una piattaforma già disponibile, cioè quella dell'Audi A4 penultima serie, un'ottima macchina, come vedremo, dal punto di vista del comfort, delle prestazioni, della tenuta di strada e delle finiture, e quindi tutto sommato forse era possibile fare delle sinergie di scala all'interno del gruppo e rendere la macchina a un prezzo competitivo così come è stato. Bene, senti, passiamo invece adesso ad alcuni dettagli. Per esempio mi vengono in mente i freni, come si comportano queste due vetture con la sicurezza che ne conviene. Certo, allora nella nostra prova abbiamo riscontrato che i due impianti sono adeguati, sono impianti potenti che rispondono bene, ma c'è una leggera prevalenza dell'impianto Seat, in quanto l'Exeo ottiene migliori risultati sia nella frenata da 100 km/h a freddo, sia sull'asfalto differenziato, asfalto bagnato ghiaccio. Queste due caratteristiche la rendono leggermente più performante con l'impianto dell'Exeo. In ogni caso anche l'impianto Alfa risponde adeguatamente ed è ben misurato e ben calibrato sulle prestazioni della vettura. Molto bene, sentiamo insieme la scheda della pagella, poi torneremo con due pregi e due difetti per ognuna di queste vetture. Posto guida. Buono sull'Alfa, tranne la corsa lunga della frizione. Riuscito quello dell'Exeo. Tante le regolazioni. Voto 159, 4 stelle. Exeo 4 stelle e mezzo. Finitura. L'italiana fa un buon effetto, ma alcuni particolari sono migliorabili. Mediamente più curata la Seat. Voto 159, 3 stelle e mezzo. Exeo 4 stelle. Comfort. Niente male tutto sommato l'Alfa, ma l'Exeo sa filtrare in genere meglio rumore e strada. Voto 159, 3 stelle e mezzo. Exeo 4 stelle. Motore. Due buone unità, moderne, ruvidine e grintose. Un po' pigre ai bassi, poi quasi entusiasmanti. Voto 159, 4 stelle e mezzo. Exeo 4 stelle e mezzo. Freni. Buoni risultati per l'Exeo a freddo e su asfalto bagnato ghiaccio, dove invece l'Alfa soffre di più. Voto 159, 3 stelle. Exeo 4 stelle. Su strada, mai impegnativa la 159, anche al limite. E l'ESP ha poco lavoro. Exeo ok, ma lo sterzo è meno dotato. Voto 159, 5 stelle. Exeo, 4 stelle. Quattro ruote e dintorni. Stiamo terminando la prova comparativa fra Alfa Romeo 159 e Seat Exeo. Con noi Andrea Stassano di Quattro Ruote, ci racconta pregi e difetti. Iniziamo dall'Alfa Romeo, Andrea. Ma dunque, la 159 è una macchina abbastanza dura di comandi, è una macchina che dà sensazioni da feeling di guida e ha appunto nella guidabilità, nel piacere, è uno dei suoi pregi migliori. Come difetti potremmo dire la frizione pesante e dalla corsa lunga, ecco, magari se siete nel traffico in coda questo potrebbe causarvi qualche piccolo fastidio. Per quanto riguarda l'Exeo, è una macchina veloce, sicura. Sicuramente è auto che maggiormente votata al comfort rispetto alla 159, consuma poco, va molto forte, è ben realizzata, è una macchina di qualità. Un difetto, sì, mancano le bocchette della ventilazione posteriore, ed estate questo può fare una certa differenza. Molto bene, io vorrei ringraziare Andrea Stassano di Quattro Ruote. Andrea, a presto e alla prossima prova. Grazie Roberto, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Terminata la prova comparativa fra queste due vetture che sembrano aver soddisfatto il nostro interlocutore, passiamo al direttore di Quattro Ruote, ci fa compagnia, è qualche mese che mancava dai nostri microfoni, e allora caro direttore, caro Mauro, buonasera e bentornato. Buonasera a voi. Mauro Tedeschini. Allora, intanto c'è un argomento che sul vostro sito proprio due giorni fa, giovedì, ha tenuto banco. Si vedeva la foto del ministro Zaia e le sue dichiarazioni che difendono un comparto imprenditoriale importante italiano, quello vinicolo, del vino, della produzione, del mantenimento del vino, hanno sollevato diverse polemiche. Vorrei che tu raccontassi tutto questo a chi se lo fosse perso. Sì, è un'intervista che c'è appunto nel Quattro Ruote di settembre, che noi poi abbiamo ripreso anche sul sito e che in realtà hanno ripreso un pochettino tutti i grandi quotidiani e le televisioni. E in pratica si tratta di questo: siccome ci sono progetti da parte di parecchi uomini politici di portare addirittura a zero il limite di alcol che viene tollerato in chi guida, c'è stata questa sollevazione del ministro dell'agricoltura Zaia, che peraltro è un enologo laureato nella scuola del vino di Conegliano Veneto, il quale dice: qui stiamo esagerando, stiamo arrivando a dei comportamenti di tipo un po' talebano, chi beve in modo responsabile, quindi senza superare quelli che sono i limiti attuali di 0,5 grammi per litro di sangue, che secondo appunto Zaia sono assolutamente legittimi e tollerabili, secondo lui non dovrebbe essere discriminato, dovrebbe essere colpito in maniera anche dura a chi invece si ubriaca e che alla fine poi è colui che veramente causa gli incidenti stradali. Quindi lui dice c'è in atto una crociata che sta poi portando conseguenze molto gravi anche su tutta la filiera del vino, che in Italia è una filiera molto importante perché siamo il primo produttore al mondo. Certo, anche perché, direttore, lui dice non dimentichiamo il consumo e l'abuso anzi di superalcolici, per cui ne basta molto meno, e di solito chi abusa di superalcolici non ha una cultura del bere, e poi i farmaci. Esatto, proprio questo è, diciamo, l'atto d'accusa che viene da Zaia, perché lui dice si parla molto degli effetti del vino, che per carità è ovvio che se viene consumato in maniera irresponsabile può effettivamente avere degli effetti molto gravi su chi guida, però non si parla mai, per esempio, dell'effetto che hanno certi farmaci che inducono sonnolenza, stanchezza e quindi una mancanza di concentrazione che poi non è molto diversa da quella del vino. Più in generale lui dice che una cultura del vino nei giovani andrebbe trasmessa in modo da far sì che ci sia appunto un consumo responsabile che poi può accoppiare benissimo a una guida responsabile, a una condotta di vita più in generale che eviti gli eccessi che poi sono alla base di tanti incidenti che abbiamo visto. E quindi lui aggiunge un dato che è legato al fatto che solo, lui dice, il 2% degli incidenti sono causati da persone in stato di ebbrezza, ma queste persone appunto non sono mai all'interno dei due bicchieri che lui considera assolutamente tollerabili, ma sono causate da persone che appunto hanno superato di gran lunga questi limiti che lui assolutamente non giustifica, ma che anzi considera da punire in modo molto severo. Certo. Allora, direttore, fin qui, insomma, voi per primi, noi magari per ultimi, ma è ovvio, facciamo il lavoro di chi sta dalla parte degli automobilisti. Proviamo a metterci dall'altra parte. È chiaro che nessuno di noi è pro incidenti, è pro abusi, e allora cerchiamo di dividere, se sei d'accordo, queste due cose. Da una parte, chi incoscientemente fa abusi sia di alcol che di extraalcolici o stupefacenti, lasciamoli stare perché non possiamo che condannarli. Dall'altro, mi sembra che il problema sia anche per chi era abituato ad andarsi a prendere un bel branzino con le patate al forno e al pensiero di doverlo mangiare con un bicchiere d'acqua naturale sta male. Io posso capirlo, no? Però non vuol dire che non si possa, per esempio, bere un calice di buon vino. Ci sono delle condotte anche del bere, per esempio bere magari un pochino durante la prima parte della cena e a metà o da metà in poi non bere più, per far sì che tutto il cibo assunto in questo modo assimili anche l'alcol, visto che ci sono dei tempi con cui il nostro fegato poi va a diluire. Che cosa ne dici di questo? È possibile iniziare a fare anche un ragionamento di questo tipo? Ma sì, io credo che ormai questo limite di 0,5 che citavo prima è condiviso in tutta Europa e anche a livello scientifico viene considerato un limite assolutamente ragionevole. In Italia abbiamo un comportamento un pochettino schizofrenico, nel senso che i controlli sono pochi, purtroppo i recidivi vengono lasciati liberi di continuare a guidare, perché è molto raro che in Italia una persona venga veramente privata della patente, ma in realtà poi gli incidenti sono molto spesso causati da persone che appunto hanno alle spalle altri incidenti gravi, e quindi si finisce con l'invocare interventi draconiani che in altri paesi che hanno sugli incidenti dei risultati molto migliori dei nostri non ci sono, ma con poi l'esito di colpire anche quello che una volta, quando io studiavo all'università, si definiva il comportamento del buon padre di famiglia, che è la persona appunto responsabile, che è quello che va al ristorante e beve semplicemente un bicchiere di vino, che come dicevo prima è assolutamente tollerabile da una persona normale. Quindi io credo che ci sia un limite che vale per gli alcolici, vale per i limiti di velocità, cioè bisogna imporre dei limiti che siano ragionevoli, in modo poi che la gente sia indotta a rispettarli, perché altrimenti si torna a una cultura un po', diciamo, del proibizionismo, che non credo che sia quella che noi vogliamo. Assolutamente. Proviamo a dare un consiglio, dimmi se sei d'accordo. Da un po' di mesi io tengo nel bagagliaio della macchina un etilometro che si accende con una presa che inserisco dentro l'accendisigaro, professionale, quindi che è costato, però mi dà l'opportunità addirittura con i decimali di avere la certezza, o quasi, di non essere oltre. Può essere un buon consiglio quello di dotarsi di un alcol test, o da un euro in farmacia fino a quelli che costano alcune decine di euro? Sì, può essere un buon consiglio, anche se per quello che riguarda i giovani, che è considerato un pochettino la popolazione più a rischio da questo punto di vista, secondo me la strada giusta è quella di insistere moltissimo, anche appunto le radio e le televisioni, sul concetto del guidatore che non beve, sì. Ovvero le compagnie, perché parliamo sempre di ragazzi che in genere vanno via in 4 o 5 per macchina, devono avere questa abitudine, che può diventare anche un'abitudine, diciamo così, simpatica, spiritosa, di avere uno dei 5 che assolutamente non tocca l'alcol. Il cosiddetto Bobby. Esattamente, che è quello che porta a casa tutti gli altri. Io credo che questa sia una cosa che è assolutamente fattibile, e non credo affatto che i giovani di oggi siano peggio degli adulti di oggi e quindi dei giovani di ieri. Si tratta semplicemente di far passare questi messaggi, e credo che da questo punto di vista, appunto, soprattutto i mezzi veloci come la televisione e la radio sarebbero fondamentali per indurre dei comportamenti che sono molto semplici e possono evitare dei guai spaventosi. Verissimo, studiando magari una comunicazione ad hoc, perché appunto, dire a un ragazzetto di 19 anni lo stesso messaggio che a un quarantenne è veramente sbagliato, questo è il mio soggettivo parere, ovviamente, visto che sappiamo di gare per chi riesce a guidare più ubriaco possibile, ecco, cose anche fuori controllo. Senti, volevo riprendere in chiusura della nostra chiacchierata il tuo editoriale presente nel numero di settembre, lo intitoli "Ci meritiamo i 150, pochi sanno che intanto teoricamente si potrebbe già andare a 150, ma c'è un vincolo e saranno i concessionari, i proprietari delle autostrade a dire di sì. Sì, esattamente, in realtà è dal 2003, da quando era ministro Pietro Lunardi, che fu inserita questa possibilità di andare a 150 nei tratti autostradali in cui, diciamo, si possa viaggiare con una certa sicurezza, quindi con le tre corsie, con una buona visibilità, tratti di rettilineo e quant'altro. I concessionari autostradali non hanno mai applicato questa norma, adesso si sta introducendo un'ulteriore garanzia di sicurezza che è legata al fatto che questi tratti siano sorvegliati con il tutor, che è il famoso misuratore indicatore della velocità media, no? E quindi noi pensiamo che nel momento in cui questa norma sarà approvata, cosa che dovrebbe avvenire entro poche settimane, sì, effettivamente inizieranno ad esserci i primi tratti ai 150. Secondo noi, e qui appunto spiego un pochettino il titolo Ci meritiamo i 150, è legato al fatto che un automobilista responsabile secondo me può andare ai 150 con le automobili di oggi, ma dovrebbe evitare comportamenti che noi vediamo molto spesso in autostrada, cioè quelli di stare incollati alla macchina che ci precede, perché è ovvio che a 150 gli spazi d'arresto non sono quelli che abbiamo a 130 o a 120 o anche a velocità inferiori, e quindi è sempre una questione di un automobilista responsabile, insomma, non è una questione di imporre dei limiti bassissimi come qualcuno sta pensando di fare, è questione di diversi accorgimenti di sicurezza che fanno sì che anche a 150 si possa guidare molto più sicuri di chi invece magari procede a 120 ma sta incollato a pochi metri da chi gli sta davanti, e quindi in caso di un ostacolo improvviso è inevitabilmente costretto poi a tamponarlo con gli esiti che vediamo in autostrada, insomma. È chiaro, ricordiamoci, abbiamo parlato di alcol, abbiamo parlato di velocità, a molti è sfuggito, ma con l'entrata in vigore del pacchetto sicurezza chi commette una di queste infrazioni dalle 22 di sera alle 7 di mattina vede crescere le sanzioni di un terzo, ricordiamoci. Esatto, questo... tra l'altro se posso aggiungere una cosa, questa cosa vale anche per le biciclette, e quindi c'era stata la polemica di una persona che ha attraversato in bicicletta col rosso, si è visto la multa anche aumentata e ha preso 200 euro di multa e 6 punti sottratti sulla patente. Quindi... Sulla patente, stiamo parlando di patente, non è che ha sbagliato il direttore, no, è proprio così. No, stiamo parlando di patente, chi ha la patente anche se va in bicicletta si vede sottrarre i punti se fa dei comportamenti che siano considerati contrari alle norme di sicurezza. Noi italiani siamo meravigliosi, mettiamola così. Direttore, grazie di cuore, grazie per il tuo tempo, a presto e buona serata. Buona serata a voi. Quattro ruote e dintorni. Allora, siamo in collegamento adesso con il professor Paolo Malagodi, analista del Sole 24 Ore, con il quale facciamo sempre le analisi di rito inizio mese per quanto riguarda le nuove vetture immatricolate. C'è da dire che l'abbiamo sentito sabato scorso, pur non avendo ancora tutti i dati precisi, e quindi confermiamo alcune valutazioni fatte, ne aggiungiamo di nuove. Vero, professore? Buonasera. Buonasera Roberto, ben ritrovato. Sì, gli ascoltatori ricorderanno che sabato scorso, in attesa dell'uscita dei dati del Ministero dei Trasporti, che sono usciti questo martedì, il martedì di questa settimana alle ore 18, noi un po' al buio, ma relativamente a quella che è una capacità di interpretazione di un andamento, anche se non è ancora concluso, dicevamo va bene, il mercato di agosto saremo intorno a quota 85.000, così andrà bene Fiat come gruppo, in particolare andranno bene le due marche Lancia e Fiat. Ecco, tutti questi elementi si sono confermati perché il mercato comunicato, ripeto, martedì alle ore 18 è stato di 84.560, che statisticamente, ragionando in migliaia di unità, si legge come 85.000, quindi il dato era quello che avevamo dato. Così avevamo detto una Fiat come sua quota attorno al 26%, e così è, 25,9%. È un buon andamento di Lancia. Sono le due marche che compensano anche la relativa flessione di Alfa Romeo in questo agosto e quindi permettono alle marche cosiddette nazionali di avere un miglioramento di oltre il 10% superiore a quello medio del mercato di 8,5%. Decisamente, mi sa che ha vinto dunque un altro caffè, caro professore, ormai non li contiamo più con noi che siamo suoi interlocutori, però stasera noi abbiamo parlato di Alfa Romeo e di Seat, già che ci siamo, vogliamo dire due parole su questi due brand? Beh, le due marche hanno alcune loro difficoltà, Alfa Romeo perché sostanzialmente le vendite di Mito e di 159 perché 147 alla fine del suo corso commerciale fanno fatica a tenere il passo con quello di altri brand, così Seat è un po' nell'area Volkswagen il marchio più difficile da interpretarsi perché se Skoda ha un suo atteggiamento con sono prodotti anche che hanno una loro caratteristica popolare e comunque di un livello relativamente semplice di accostamento al mercato rispetto a quelli Volkswagen più sofisticati, Seat è un prodotto che tenta la strada della sportività con una traduzione in chiave Seat, come in questo caso con l'Exeo, addirittura della precedente serie Audi, con un'eccellente motorizzazione, però tutte e due le vetture, sia la 159 Alfa che la Xeo, si collocano all'interno del cosiddetto segmento D, perché noi quando parliamo di mercato lo segmentiamo: A sono le vetture più piccole, B sono le vetture utilitarie, C sono le medie, D sono le vetture medio-superiori. Ora, un mercato che è sostenuto dagli incentivi alla rottamazione e soprattutto dalla corsa al GPL, al metano, penalizza vetture del segmento D, quali sono la 159 e la Exeo, che tutte e due, avendo dei livelli di emissione di CO2, mi sembra di ricordare che siano di 142 grammi chilometro, certo, quelli della 159, e Exeo 153 grammi chilometro, valori eccellenti per tecnologia di quei motori e potenza espressa, però che non rientrano nei limiti previsti dagli ecoincentivi, ecco che sono questi i segmenti che soffrono, tant'è che mentre abbiamo un continuo aumento dei segmenti A e B, per intenderci quello della Panda, della Grande Punto, della Fiesta, eccetera, abbiamo una relativa flessione anche in questo agosto, sia del segmento C, quello delle medie, con un meno 6,14, e quello delle medie superiori, in cui rientrano 159 ed Exeo, meno 17,27. Quindi prodotti eccellenti, però sono in controtendenza rispetto alle richieste della clientela. È chiaro, è molto chiara la sua analisi. Si può a questo punto, lo avevamo promesso sabato scorso, provare a fare un azzardo, non dico previsione, ma un'analisi dei prossimi 4 mesi, in questo fine 2009, dove macroeconomicamente si è iniziato a discutere di ripresa, di fine del tunnel, però questo settore automobilistico continua a soffrire. Roberto, io giudico settembre il passaggio più a rischio di tutto questo percorso, che ha dato una spinta al mercato da metà febbraio con il rinnovo degli ecoincentivi e con loro il robustimento soprattutto per il GPL e per il metano, e abbiamo questo settembre nel quale vengono al pettine molti nodi, tipo le aziende in cassa integrazione che esauriscono i termini della cassa integrazione, tipo le aziende piccole e medie che faranno fatica, diverse di esse, a riaprire. Quindi il dato occupazionale di settembre è pesante. Certamente abbiamo una tendenza che continua nella richiesta degli ecoincentivi e delle vetture con GPL e metano, e questo trend potrebbe superare questo punto di settembre molto critico. Io personalmente sono di questa seconda ipotesi, per cui ritengo che anche settembre rispetto al 2008 avrà un andamento positivo, e che seppure con le difficoltà economiche di un autunno non facile da superare, avremo verso fine anno una relativa situazione di tenuta di un mercato che era previsto in termini catastrofici, ma sostanzialmente su livelli superiori ai 2 milioni, potrebbero anche essere a questo punto 2 milioni 50 mila, però lo diremo soprattutto dopo settembre, con meno 100 mila unità rispetto all'anno scorso, il che è tutto sommato di questi tempi. Non sarebbe male. Non, con incentivi ha funzionato. Non sarebbe male, grazie soprattutto agli ecoincentivi. Ultima cosa, una curiosità un po' fuori dal coro, professore. Di solito parliamo molto di segmento A, segmento B, questa sera anche ovviamente C e D, che sono le auto, come diceva lei, dalla 500 Panda fino alla Seat Exeo e Alfa 159 provate questa sera. Anche se non ha senso statistico, come si comportano in Italia i 4-5 brand di lusso, da Ferrari, Bentley, Aston a Lamborghini? Sebbene i numeri non facciano, lo sappiamo, sono piccoli numeri, ma rispetto agli anni scorsi? Beh, Ferrari sostanzialmente ha una sua, diciamo così, anticiclicità, cioè Ferrari mette fuori dei modelli, il mercato li compra, per cui se l'andamento di agosto non dice nulla per un brand di lusso, perché magari in agosto uno è sul proprio yacht, certamente, e non neanche la Ferrari, gliel'hanno immatricolata o prima o gliela daranno a settembre, per cui nel periodo gennaio-agosto Ferrari ha un leggero più 0,19 rispetto a un mercato che invece è in calo del 7,39. Soffre di più Maserati, ma ci sono anche ragioni di prodotto. Adesso la nuova coupé è molto interessante, certamente potrà rialzare le quote di questo brand. Soffre relativamente a un mercato che ha anche vetture del livello Cayenne che sono in relativa difficoltà, più che la 911 o la Boxer. Porsche ha una situazione anche relativamente pesante Jaguar, per cui non si può dire che pur con l'eccezione Ferrari il mercato dei brand di lusso brilli, tant'è che anche per le marche più generaliste del settore premium, posta l'eccezione di Audi, che ha in Audi A4 una macchina trainante, è la prima venduta del segmento D, nel quale poi abbiamo a seguire la BMW serie 3 e l'Alfa Romeo 159, poi vedremo Seat Exeo come si comporta, perché l'introduzione della Exeo è nuova, certo, per Seat nel certo. segmento D. Però ecco, marchi come BMW hanno un calo negli 8 mesi del meno 25% e anche Mercedes non è che stia benissimo, perché meno 27%? Perché sono soprattutto le aziende che hanno rallentato le immatricolazioni, e quindi queste sono vetture comprate da persone che le usano a livello aziendale, mentre ciò che tira è il mercato delle piccole, che è il mercato dei privati, tant'è che per dare un'ultima annotazione, e non vorrei essere troppo così carico di dati agli ascoltatori, mentre l'anno scorso nei primi 8 mesi il mercato dei privati era un 68%, quest'anno è un 76%, mentre l'anno scorso il mercato delle società era quasi un buon 16%, quest'anno è solo un 11%. È chiaro che in quell'11% sono soprattutto BMW, Mercedes e altre marche di risentirne, certo, certo. Con l'eccezione, dicevamo prima, di Ferrari e il relativo buon andamento, chiaro, successo di Audi A4 di Audi. Poi lì basta un'annata con 4-5 unità in più e sui pochi numeri che hanno fa molta statistica, è evidente. Però era una curiosità che ci siamo tolti volentieri. Non dimentichiamo, ha citato BMW per esempio, anche le grandi annate fatte gli anni scorsi, per cui è ovvio che anche a livello aziendale si è scoperto che un'auto dura più di 2 o 3 anni e viva, e quindi la si tiene magari un anno in più in attesa di vedere che cosa succede. Va bene, grazie di cuore allora al professor Malagodi, a presto, ci sentiamo i primissimi di ottobre, professore, certo, grazie. Augurandoci che settembre abbia questo andamento. Speriamo. Non sia contraddittorio rispetto a ciò che abbiamo detto. Buona serata. Grazie di cuore e buona serata al professor Malagodi. Rimaniamo in campo automobilistico, trasferiamoci però sulle strade, accanto ai semafori, perché sta succedendo qualcosa di particolare. In alcuni comuni ci sono semafori il cui giallo, il colore che sta a metà dei tre selezionati verticalmente, dura 3 secondi, 4. In altri addirittura 7-8 secondi. Quattro Ruote ha fatto una prova veramente interessante, portando un semaforo e un photored, una specie di vigile automatico che guarda il semaforo e che pizzica chi passa con il rosso, li ha portati in pista e ha fatto delle prove. Ce le racconta Emilio De Lady. Caro Emilio, buonasera e bentornato. Eccomi, buonasera a tutti, ciao Roberto. Allora, come facciamo a descrivere questa prova ai nostri ascoltatori che pensavano probabilmente che il giallo durasse in maniera universale in tutta Italia un certo tempo? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che non esiste una norma nel codice della strada che prescriva la durata della luce gialla dei semafori. Già questo è un punto che spiega le incongruenze che tu hai già accennato. Esiste però una norma sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali, un documento ministeriale del Ministero delle Infrastrutture, che dice che il tempo può variare e per esempio per un'intersezione di un incrocio su una strada da 50 km all'ora può durare 3 secondi, a 60 all'ora 4 secondi, a 70 km all'ora 5 secondi e in presenza di traffico pesante conviene utilizzare i 4 secondi. Ecco, perché è interessante questo discorso, scusami Emilio, ma perché di mezzo c'è i cosiddetti fotoredo, comunque tutti i sistemi sistemi di rilevazione automatica delle infrazioni di passaggio con rosso, che significa anche un bel po', oltre che di multa, anche di decurtazione, scusate, di punti, e quindi la durata del giallo fa sì che si possa passare l'incrocio senza correre il rischio di sanzioni o meno. Ecco, tra l'altro tutto questo implica una conoscenza importante che voi sottolineate nel vostro articolo, che è quella degli spazi di arresto, di cui molti sanno poco, perché dipende sì dalla velocità, però uno dice beh, ci sono i 50 in città, quindi lo spazio è quello, ma dipende molto dalla prontezza del guidatore e anche dalla vettura. Bravo, naturalmente tu hai già fatto una distinzione importante tra gli spazi di frenata, che sono quelli che quattro ruote misura nelle prove su strada, senza tener conto dello spazio percorso nel tempo di reazione, cioè quello che serve per reagire dal momento in cui si vede l'ostacolo, oppure si vede appunto un semaforo che diventa rosso, all'azione fisica di intervenire sui freni di un veicolo. Uno spazio che nei casi peggiori può arrivare anche a un secondo, in genere molto meno se si è attenti, ma si può anche essere distratti, oggi c'è il telefonino, il navigatore, l'autoradio eccetera, e quindi fa sì che il fermo definitivo del veicolo avvenga a volte anche parecchi metri più in là rispetto allo spazio teorico di frenata. Ecco. Quattro ruote e dintorni. Allora, siamo in compagnia di Emilio De Leidi di Quattro Ruote, siamo in attesa di capire che cosa allora è successo in pista, dove hanno portato gli uomini del mensile un semaforo, un fotored, e hanno preso un'auto che tra l'altro era una piccola auto, per non falsare con eventuali riprese da Top Car i dati. Emilio? Se si tratta di una Top Car magari con freni carboceramici che costano come un'utilitaria intera, qualcosa può cambiare. Noi abbiamo visto che a 50 all'ora comunque i 3 secondi sono in genere sufficienti in condizioni ottimali, sia per fermarsi in tempo se non si vuole correre il rischio di venire sanzionati da fotored, sia per passare con il giallo, quindi attraversare lo spazio dell'incrocio prima che scatti il semaforo rosso, e quindi automaticamente un eventuale dispositivo di rilevamento elettronico delle infrazioni faccia la cosiddetta fotografia, che poi è il mezzo di prova attraverso il quale viene comminata la sanzione. Certo. È chiaro che tutto deve essere studiato e regolato a seconda delle caratteristiche dell'incrocio. In molti casi, come dice la norma stessa, se ci sono mezzi pesanti, i 4-5 secondi sono indispensabili. Se ci sono dei flussi di traffico importanti, il rischio di veicoli bloccati in mezzo all'incrocio, ecco, fa sì che sia importante che il giallo sia un pochino più lungo per permettere a tutti di defluire e evitare quegli accrocchi che si vede spesso, che si formano nelle nostre città con le auto che non riescono più andare da nessuna parte. Assolutamente. Il Veneto ha scelto la strada degli 8 secondi perché sostengono la regione di aver dato questa direttiva ai comuni perché a loro parere è più favorevole dal punto di vista della sicurezza stradale. Noi crediamo che comunque tutto questo non debba essere mai applicato in senso punitivo, cioè ridurre volutamente, come è stato fatto in alcuni casi in passato, da un giorno all'altro il tempo, proprio in concomitanza con l'installazione di dispositivi come il fotored, significa sinceramente avere più a cuore le casse del comune che la sicurezza stradale in senso vero e proprio. Decisamente. Chiudiamo con un consiglio per gli ascoltatori: che cosa fare quando arriva un verbale? Se si ha dei dubbi, è importante che al verbale siano allegate almeno 2 fotografie che documentino il fatto che il veicolo sia passato effettivamente con la luce del semaforo rossa. Se non sono allegate, si possono e si devono richiedere al comando di polizia municipale che ha elevato la contravvenzione, e se si ritiene che ci siano degli elementi per fare ricorso, il consiglio è quello di rivolgersi al giudice di pace, perché ricordo che il prefetto, è vero che magari non sempre riesce a rispondere in tempo e quindi c'è una sorta di silenzio assenso che permette di contare sull'annullamento della multa, ma è anche vero che se respinge il ricorso, automaticamente la sanzione pecuniaria da parte del prefetto viene raddoppiata, cosa che non avviene nel caso di ricorso al giudice di pace. Verissimo, teniamone conto. Emilio De Leidi, grazie di cuore, a presto e buona serata. Grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. A Adesso ci occupiamo di kit viva voce. In particolare ha attirato la nostra attenzione il fatto che sia stato progettato, pensato un kit viva voce, si parla di sicurezza alla guida evidentemente, per uno dei modelli di telefonini più diffusi al mondo e anche nel nostro paese, capace di grandi successi. Sto parlando evidentemente, fra i due che avete in mente, dell'iPhone. Allora, si chiama RKI 8400 e l'ha progettato Parrot. Prima ancora però rinfreschiamoci le idee. Abbiamo il country manager Parrot Italia, Marzio Gasparro. Allora, dottor Gasparro, buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie a voi. Grazie del suo tempo. Per dire ai nostri ascoltatori intanto che cos'è Parrot, dove ha la sede, che cosa fa dal mattino alle 8 fino alla sera alle 8. Allora, Parrot sostanzialmente è una multinazionale francese che produce periferiche wireless, ovvero sì, senza fili per la telefonia mobile. E abbiamo filiali in tutto il mondo ed è leader mondiale nel viva voce Bluetooth per l'automobile. Viva voce per non usare le mani, Bluetooth si collega quindi senza fili e questo aumenta ancora di più la sicurezza. Le scene da panico con le cuffiette che vediamo durante la guida sono quasi più pericolose che col cellulare in mano. E per di più adesso RKI 8400, ci fa un'introduzione a questo prodotto? Sì, l'RKI 8400 è l'ultimo capolavoro presentato da Parrot ed è stato creato esattamente per l'iPhone e per l'iPod, infatti è brandizzato anche sulla confezione Work with iPod e Made for iPhone, proprio per il fatto che ha una compatibilità a livello di connettività con l'iPhone e con l'iPod, con la possibilità addirittura di visualizzare tutti i brani musicali, quindi è sia un autoradio con tutte le funzioni, sì, un autoradio digitale senza meccanica, e in più è un viva voce che è il nostro core business, cioè quello sul quale siamo concentrati proprio in termini di sicurezza stradale, visto che si stanno anche inasprendo le pene parecchio di più. Ne abbiamo parlato prima con il direttore di Quattro Ruote, sì. Senta Gasparo, mi viene in mente una cosa estemporanea. L'altro giorno ho visto una meravigliosa Fiat 500 che doveva essere molto vicina agli anni 50, quando evidentemente fu progettata per la prima volta, perché era veramente vecchiotta, evidentemente non aveva la radio e il proprietario guidatore aveva le cuffiette riconoscibili come cuffie di un iPod. Quello potrebbe essere un modo per non mettere le cuffiette, liberare le orecchie e sentire con un viva voce la musica. Esatto, e soprattutto legalmente la musica, nel senso che con le cuffiette sarebbe vietato, perché un orecchio deve essere libero, sì, quindi è assolutamente vietato. Quindi il concetto su cui si concentra Parrot è tenere sempre le mani sul volante, ecco perché l'RKI 8004 è comandabile tutto, anche vocalmente, tutto a riconoscimento vocale, sia a livello di rubrica telefonica, per poter chiamare chi si desidera all'interno della propria rubrica, sia a livello di brani musicali. Decisamente. Senta, immagino che i proprietari di iPhone si stiano chiedendo del funzionamento. Cerchiamo di interessare anche gli altri, ma un minuto a loro lo dedichiamo, visto che è appropriamente progettato per loro. Sì, ecco, Parrot, visto che ormai da 5 anni concentrata proprio sui viva voce, ha una compatibilità con il 100% dei produttori di telefonia oggi, quindi qualsiasi cellulare Bluetooth funziona perfettamente a livello di connettività con l'RKI 8004 in termini di viva voce. Inoltre col Bluetooth A2DP, cioè il Bluetooth stereo, che ormai un 30% dei cellulari sul mercato hanno, si può anche trasmettere brani musicali dal proprio telefonino. Oggi tantissimi cellulari hanno la possibilità di trasmettere musica. Molto bene, chiudiamo con il dove trovare questo Parrot e il prezzo preciso. Allora, è stata lanciata sul mercato il 1 settembre a 299 euro, al pubblico, e si può trovare in tutti i centri Norauto Italia, nonché tutti i migliori installatori di elettronica per l'auto, e da ottobre anche nella grande distribuzione specializzata. Molto bene, grazie davvero a Marzio Gasparro, country manager di Parrot Italia. A presto e buona serata. Grazie, buona serata anche a voi. Chiudiamo la nostra trasmissione con l'avvocato Erika Lievore, ci fa compagnia ogni settimana o 3 volte al mese per parlare del codice della strada. Intanto gli aggiornamenti da una parte, ma anche quelle vecchie sane regole che spesso sottovalutiamo. Avvocato Lievore, intanto buonasera e bentornata. Buonasera a lei, ascoltatori. Ci ha scritto un ascoltatore, avvocato, dicendo di essere in corso in un incidente stradale mentre facendo retromarcia entrava in un parcheggio. Improvvisamente sopraggiungeva un altro veicolo alle sue spalle. Che cosa prevede il nostro codice per la guida in retromarcia? Approfittiamone proprio per ripescare la norma. Allora, l'articolo 154 del codice della strada prevede esattamente che colui che compia delle manovre di retromarcia è tenuto a dare la precedenza ai veicoli in marcia normale. Questo significa quindi che effettuare delle piccole manovre di retromarcia è comunque consentito, a patto che il conducente del veicolo dia sempre la precedenza alle macchine che giungono nella regolare direzione e questa manovra sia comunque una manovra di breve durata e quindi senza creare un eccessivo intralcio al traffico. Possiamo dire quindi per il nostro ascoltatore che effettivamente è ritenuto generalmente responsabile colui che si trova a svolgere questa manovra di retromarcia e quindi responsabile dell'eventuale incidente stradale che provoca facendo tale manovra. E da ultimo ricordiamo comunque che devono essere sempre funzionanti i dispositivi di illuminazione di retromarcia del veicolo. Anche quello sennò arreca delle responsabilità per il proprietario del veicolo, il guidatore, è chiaro. Parliamo anche di sanzioni per capire che cosa si rischia oltre alla pericolosità su strada per la pericolosità del nostro portafoglio. Allora, chi effettua una manovra di retromarcia omettendo di dare la precedenza incorre una sanzione che va da 36 a 148 euro. Diverso è il caso in cui ci si trovi in autostrada, in questo caso infatti è l'articolo 176 del codice della strada che sanziona più duramente questa infrazione, prevedendo una sanzione da 389 a 519 euro, la decurtazione di 10 punti della patente e dall'agosto 2009 con la legge 94 anche la sospensione della patente da 2 a 6 mesi. Tutto questo se si fa retromarcia in autostrada e ricordiamocelo, da 389 a 519 euro, 10 punti decurtati e sospensione della patente da 2 a 6 mesi per la retromarcia in autostrada. Scusate se l'ho ripetuto, ma mi sembrava opportuno. Certo, ricordiamo inoltre che sempre con il pacchetto sicurezza, cioè questa legge 49 che è entrata in vigore nell'agosto 2009, questa sanzione viene aumentata di un terzo se questa violazione è commessa tra le 22 e le 7 del mattino, quindi negli orari notturni. Stiamoci attenti davvero due volte. Grazie, avvocato Lievore, che trovate attraverso la nostra email 4, scritto in numeri, ruote@radio24.it. Grazie, avvocato, e buona serata. Buonasera a lei, suoi ascoltatori, grazie. Termina anche la nostra trasmissione con la voce dell'avvocato che ritroveremo la puntata prossima, sabato, dalle 21 fino alle 21.45. Roberto Rasia vi aspetta qui al microfono e Giacomo in regia. A presto e grazie per l'ascolto, ma soprattutto, come sempre, buona guida.